Ricavi non dichiarati per 113 milioni di euro, IVA evasa per 36 milioni e 31 evasori totali. Questi i risultati di un'indagine della Guardia di Finanza sui negozi compro oro in tutta Italia. Complice la crisi, questi punti vendita si stanno moltiplicando. Più 25% dei ricavi nell'ultimo anno, oltre 5.000 negozi in Italia. Ma come ha detto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri alla Commissione Antimafia, si registra anche un'oggettiva difficoltà per la tracciabilità dei passaggi di mano che bisognerebbe attualizzare anche a beneficio di una maggiore trasparenza fiscale. In parole povere, questi esercizi commerciali spesso nascondono attività illecite che vanno dall'evasione al riciclaggio e sono spesso nelle mani della criminalità organizzata. Il trucco usato più frequentemente è quello di evitare il pagamento IVA sui gioielli, dichiarandoli come rottami da vendere alle fonderie. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.